quello di cui ho fatto. Per cui però i segnali che vi ho dati ve li ho presi in analogico poc'anzi, non solo tu dando i segnali con lo digitale, sia ben chiaro, ho voluto constatare come sia l'uno che l'altro, capito Marco? Io di solito quando chiedo un controllo di segnale lo chiedo comportante muta, cioè la premo, la lascio un po', dico va bene, che se no confondemi, quel picco minimo che c'ha lo Schmitter di modulazione lo può falsare. Io di solito lo chiedo senza modulazione, a meno che non lo chieda appositamente, tipo fischiando o roba del genere. Ok, sì, adesso guardando così in digitale mi stai segnando intorno alle 9.15, stai segnando perlomeno, con naturalmente una misura orientativa, perché sai benissimo che alle 9.15 con le barre non esiste assolutamente, devi solamente fare approssimativamente basandoti sullo strumento analogico, tutto lì o Marco. Bene, voi riprendete voi, dai, c'è un caldo, c'è le mutande, c'è un caldo, ma come si fa a passare 3 mesi così? Ah, è caro caldo. E sono in mutande giusto perché vive, c'è mamma qui in casa, se no me ne starei al culo nudo pure. E adesso arriva Falcone fra un po'. Vai Claudio. Ma ti mando l'infermiera. Infermiera buona però, che abbia delle... che sia professionale. Che ti faccia il controllo tutto, hai capito? Ti metta sotto come si chiama il... non l'alcol, l'altro, quello rosso. Mercurio cromo, cazzo. Lo sai come ti brucia? Ciao Marco, se mi avete chiamato vi saluto, rimango in ascolto che è arrivata gente, riprendi Gianni. E ya, ciao, buco di tira. Avanti Giulia, Gianni è un profeta. Eccomi, ciao Giulio, buonasera. Non sapevo che tra una cosa e l'altra mi sono preso un po' di roba. No, che stavo mandando i messaggi a un amico, mi ha chiesto delle informazioni e quindi dovevo, mi sono distratto, dai, niente. Qua tutto ok, si è abbassata la dieta, e niente, dai. Io, al contrario di Marco, sono in tutta e a pitorra di quelle come si tocca. E fai bene, ciao Gianni. Sì, vabbè, dai, tu sei intorno 9-10 circa, va bene così. E io dico a te come sono, Gianni. Qua giù, in questo momento non ho gli occhiali. Così a occhiometro non saprei cosa dirti. Eppure una ciappa, un di raggio bocchi. Mille, eccoli qua. Aspetta un attimo. Ok, vai a vedere. Ok, dai, 1, 2, 3, prova. Allora, lo strumento, non so se chiaramente è molto attendibile, comunque visivamente sei perfettamente sul 9. Sì, è normale, sì. È normale considerando la potenza, un watt. Sì, è normale, ho già, va bene così. Va bene, dai, ragazzi, divertite, dai, continuate, io me ne scendo giù, mi bevo un bicchiere d'acqua fresca, così almeno, e poi o magari mi mangio un congelato, anche se fra un po' è ora di cena, ma comunque, per rinfrescarmi lo faccio. Ciao Gianni numero 1, Gianni numero 2, e anche a Claudio e a Marco, salutoni a tutti, cuore ti permetto, poi il vostro finalino, vai pure Gianni numero 1. Ciao Giulio, ci sentiamo, quello tipo tutto, cosa non ho ripreso, e ciao anche a Claudio che stava facendo forse. Ok, avanti Marco. Aspetta che saluta Antonio, non sapevo che c'è, ciao Antonio, riprendi pure Marco. Ciao Giulio, dai, ci sentiamo. Chi altri c'era? Ci siamo persi qualcuno cambiando canale, cambiando discorso. Antonio, c'è ancora Antonio? Ho attaccato l'apparato con l'anaconda. Dai, entra al volo. Ciao Giulio, buona serata, ciao Claudio. Niente, avanti l'anaconda. Cazzo, dico che c'è l'anaconda perché c'ha un cavo del microfono, sarà 2 metri minimo. Non ne ho trovato altro, le ho messo quello, ma non so quanto è comodo. Lo immagino, a me il cavo di questo microfono è sì spiralato, però è molto più rigido dell'altro. E niente, dai, vabbè, già matrice così non è problema. Però no, questo qui va bene, questo qua è bello lungo, sono sdraiato nel letto, a petto nudo, e me la sto, diciamo, sto passando un po' di relax, là. Io ricavo da 2 metri quello a 5, no, quel tipo di microfono che vendono, cioè che vendo, che usava lo speed, potrebbe essere con la spirale lungo 2 metri. Stai portando dietro un po' di propagazione, non lo so come sta facendo questo è il Cobra, dai. Sta facendo bene a voglia. Questo si sostituisce Galaxy Saturneco, purtroppo è andato via. C'era uno l'altro giorno, 130 euro per il volo, nuovo quanto il suo era, nuovo dopo nuovo, nuovo, lo stesso tasso, 130 euro, a coso, a nuovo, bastava andare in macchina attraverso il tirato. Già lo so, a Piero le dà. Non so come si chiama, l'ho visto su Facebook l'altro giorno, c'è 50 euro, c'è un Saturneco nuovo, a nuovo. Vabbè, ce ne sono anche 2 Aussi per questo, in riparazione ce n'era. C'era una ragazza, ce l'ha, adesso non so se magari quella la prende e lo vende. C'era 2 Saturneco di Aussi, c'era l'altro giorno, su YouTube. Gli ha dato in pratica un tipo che per riparare c'ha scritto Silvia di Ussi. Mi la rega Eddie, io a loro non vado. Marco Baresca, c'è la gamba che dovrò essere operato sicuramente di nuovo. Una l'ho operata, adesso c'è l'altra. Gianni, scusa, questo fa 9,25, quasi 9,25 questo che stai usando adesso. Va bene, ciao, ci sentiamo. E questo qua è il voice. Sì, ma va benissimo. Cappa. È bello, nuovo giù, non c'è un graffio, perché era di un collezionista, questo che ho preso a Continente, non l'ho preso qua. Ok, va benissimo, va, non c'è problema, molto molto bene. Vai Marco, dai, non riprendo più, dai, salutoni a tutti. E io Giulio, dai, sentiamo giornate più fresche, si spera. Antonio, vai tu, oppure Gianni l'altro. Gianni il profeta, riprendi tu, io sono accordo di argomenti. Sono propagazioni. Che cavolo, ma tanto da coprirmi o disturbarmi sotto. No, a te no Marco, a te non ti disturba. No, a te no. Alice stava disturbando. Cava. Vabbè, vabbè, metto il microfono a parte. E un po' siamo cotti dal... Che ore è? Cacchio le 8:20, siamo cotti dal fine serata, mi sa dai. Io praticamente mi stavo riposando a mezza serata, poi sono stato evocato da Natalino e dal profeta. Ero mezzo dormito, poi attaccavo a parlare, eccetera, eccetera. Però in effetti sono molto giù di tono, l'estate mi distrugge, è una rottura di coglioni infinita, scusate il termine. Attacca Marco che se no ti copro. No dai, già tolto tutto, ho staccato almeno lo spinotto, mi hai messo l'antenna. Non mi piace tenere in istruzione cose così a umma. Ma adesso ti stavano coprendo, cioè, poco fanno, ma adesso deve essere annassato qualche cosa, è entrato qualche cosa più potente, una cosa che non si gridi. Vabbè, Antonio, parla tu, dai, io getto la spugna, dai, sentiamo migliori occasioni. Comunque sì, ho visto i risultati, è più di un... il venditore sito dice sempre quello 30 watt MFM e in realtà anche io credevo di più, onestamente credevo di più in AM, eppure se vai a vedere sono un bemmi, tu conta che l'Omega Force mi pare di essere una ventina modulati col pappagallo moduletto, no? E cosa mi diceva? No, devono essere 80, non ti sta funzionando. E lui li misurava picco picco, Sandro. Hai capito cos'era l'inghippo? Sì, quello di Sandro dice che usciva a 100 watt, sto mettendo la storia anche quello. È difficile che gli apparecchi ti diano 100 watt dalla casa. No, ma poi ero sicuro perché io avevo letto, mi ero informato, non è che non si può dire una cosa per un'altra. Far passare l'apparecchio per un apparecchio che non funziona bene. Vabbè, comunque abbiamo risolto tutto lì, non c'è problema. Gli apparecchi già lo sai che sono quelli che sono. Se fosse stato un 100 watt, sai come avrebbe messo. Sarebbe stato limitato e sarebbe stato floccando, sarebbe stato. Oh, comunque, aspetta che non riesco a pigiare. Certi baracchini se li stanno facendo pagare veramente che quanto HF, non dico. Allora, il presidente Jackson V4, presidente Jackson 2, il secondo, versione 4, quell'ultimissimo, 285 euro, ma stiamo scherzando. Cioè, a quel prezzo ti pigli davvero un 430, 440 usato. C'è ben altra cosa. Poi vabbè, il prezzo onesto, molti lo vendono 2,40, 2,30. Media Globe è quello che ha i prezzi migliori in assoluto. Su tutto è. E l'hai visto il Cobra DX quanto costa? Qual è? Quello che c'ho io, il Cobra DX 200. E sai cos'è già? È uscito però anni fa. I prezzi non so a che periodo si riferiscano. Io so che appena è uscito costava una follia. Quello è uscito prima dei Magnum, mi pare, prima delle S9, di tutti quelli. Costava 700 euro. Cazzo. Cioè 700 euro, aggiungaci, ci pigli un HF nuovo. L'FT450, quell'HF nero, carino, vabbè carino, a molti non piace, a me piace. E c'è tutt'altra cosa, ma sì, veramente esagerano. E comunque in casa erano abbastanza, anche l'Omega Force in casa era abbastanza monello da usare. Questo qua fa 10-11 metri, quindi un bel apparecchio. Poi è bello da vedersi, è bello. A me mi è piaciuto molto l'estetica, perché a me deve colpire anche l'estetica di un apparecchio, non solo il fatto di come esce, di come. Anche l'estetica a me deve colpire, anche lui che vuole la sua parte. Sì, via. Per esempio a mamma sono sempre piaciuti i baracchini cromati, tipo il 3009, quando vedeva questi invece digitali, tutti neri, con questi tassini, vabbè, retroilluminati, adesso una volta non erano manco retroilluminati, che brutto, scuro, non c'è niente, non è lucido, non è luccica. E cosa ha detto del Scappami? Dice che è brutto questa radio, perché questa è una radio così brutta? C'è questo Smitter smorto, i 140 mi. Ho letto le recensioni su Cobra 200X, dicono che praticamente è un bellissimo apparecchio, bello d'estetica, esce bene, la recensione è buonissima, l'unico difetto è che c'ha la scheda, come si chiama, in SSD. Ma in SSB, cioè o riceve male o trasmette male, cosa c'ha? Non è perfetto in SSB. No, un tipo di scheda. No, non sto capendo già. Ah, ci sono due tipi di schede, quella con i componenti piccoli, microbici, come vuoi chiamarli, c'è quella normale, quella con i componenti piccoli, dice che l'unica cosa è quella. Micro SD. Micro SD, sì. Beh, erano meglio quelli di una volta, almeno per quegli apparecchi da battaglia, perché questi micro SD, sì, magari qualche wattino ce l'hanno, ma non puoi avere quelle modulazioni tipo Top Gun Modulator. Rischi di spaccare tutto. Beh, lo dico, se avessi avuto l'ultima, il tipo di scheda che facevamo prima, sarebbe stato completo come apparecchio, capito? Invece queste micro SD non le piacciono, questo che ha fatto la recensione. Ah, allora vabbè, quello che ha fatto la recensione, sì, ma molta gente non. Scusate, Bianco, per me un attimo. ho letto diverse cose su questo apparecchio qua per vedere come andava, eccetera. Ne parlano tutti bene, anche su Roger K. E gli apparecchi modello vecchio stavano bene. Anche a riparare, ma è modello nuovo. E come fai a ripararlo? Un casino. Non te ne fa nessuna strada di capriccio. L'unico che poteva far forse farlo è la scarpa, quando aveva aperto il laboratorio tecnico per microprocessori. Solo lui poteva farli, diceva il tecnico adatto. Anche se ne sono usciti gli occhi fuori, io ho conosciuto senza occhiali, adesso con gli occhiali. Lui si come il coso, che la scarpa non c'era più questo scarpa. Ah? Ma quello che c'è di fronte a te non era di scarpa, quello che dovevano fare le riserve di telefonia, dopo non l'ho mai fatto. L'aveva preso scarpa, quella avevo fatto costruire scarpa, dopodiché ha fallito, una volta che ha aperto quel padre ha fallito immediatamente, quindi quel locale era stato sequestrato, capito? Ci ha buttato tutto via, ci ha buttato computer, telefoni, c'era. Quindi figurati. Adesso c'è una persona che ci ha messo i videogiochi giù, poi sopra se l'ha affittato per fare il dentiere, e poi ci ha ammazzato, non so se c'è da lui abitare o cosa, o se l'affitterà. Cavagava. E adesso mi pare che c'è casino Loli. Sì, comunque giù li hanno chiuso. Dove c'era il garage prima che affittava a parcheggio li hanno sequestrato. Hai capito? Infatti sta vendendo i stalli, capito? È chiuso, mi hanno fatto chiudere. E infatti è salvato. Sta o affittando o vendendo per metterci le auto giù, ma è sempre chiuso, non gli è colpa nessuno, ma si pare che uno va lì e si mette la macchina e 15.000 euro, 20.000 euro a stallo, sai macco. Ma il K non lo stai usando? E perché non lo senti che è questo il 140? Questo è il K? E via. Vabbè. Non sento la modulazione del coso, con normale, è vero, lasciare il microfono normale. Sì, il microfono normale ci aspetta, ci attacco l'altro. Ascolta, c'hai anche le MV4, le MV5 quello con l'attacco diretto? Le MV5 c'ho, no? Il 4. Il 4 ce l'ho nell'altro baracchino. Aspetta un attimo, te la caccio. Quello che prende la corrente all'apparecchio sarebbe. Eccolo qua, questo è il P5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beh, cambia la modulazione, ci sente l'amplificazione. Cavagala. Questo è il P5. Capito? Poi il P4 ce l'ho agganciato nel 2009. È nuovo quel microfono là, ce l'ho messo di là e poi c'è il salento. E andava. E vabbè, dai, già ti sento bene. È solo che ci sono molti disturbi oggi con questa propagazione da... Non so se voi li sentiate, ma io ogni tanto sento. E io sento che c'è propagazione. Ce l'ho... anche in primer la propagazione addirittura, io figurati tu, quindi figurati 27. Ah, ma io sono attaccato, ragazzi, non capisco più nulla qua. Ah beh, perché è forte la propagazione, non è mica bassa. Ho già detto, tanto sale e scende la propagazione. Qua non c'è nessuno e qua c'era quell'altra poco fa, intanto l'altra si vada. Aspettate un attimo, provo a provare. Ah, eccolo qua, ora 1, 2, 3. Gianni, ma stai prendendo per caso splatter o battimento dal 23? Cavagava, hola, mi ascoltate? Sì, che ti ascolta, voglia. Ci scuccio. Molto bene. Chiamate se manca per se c'è l'estate da 23. Sono quelli per cagare. Aspetta. No, Gianni, mico. Cappa. Ho detto, ma stai prendendo splatter dal 23 per caso? Sì. Forse siete troppo attaccati. Io non... non c'ho presente la posizione di delle altre persone lì, ma credo che siate molto molto attaccati. Basta abbassare il lineare, non attaccarne, quando serve c'è altra gente, invece non hanno un po' di amor proprio con gli altri. E tu attaccando Roma stessi, oggi il caldo fa diventare nervosi, mi state buoni se potete, come quel film. Come già vedo, Coco. Ma io ti ho fatto male. Mamma mia, come se fosse questo canale. Quando mai non ho preso che possa disturbare, boh. Ciucucu. Marco è sparito. Marco, dai, io vi saluto, dai. Ma ne vado sul 23 che non capisco nulla, se no. Va bene, ciao, già, ci sentiamo alle prossime. Tu. Ora, canale 7, c'è nessuno che mi ascolta? Non c'è nessuno.